America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The question is, what do you do about it? And the prescription of withdrawing from trade deals and focusing solely on your local market, that's the wrong medicine. Barack Obama a Ottawa, il vertice dei leader nordamericani, un vertice NAFTA a tutti gli effetti, che dice letteralmente: dobbiamo essere sempre più coinvolti gli uni con gli altri, non possiamo chiuderci. A coloro che sono preoccupati per quel che succede nell'economia, dico: avete ragione ad essere preoccupati e dobbiamo occuparcene, ma proponete la soluzione sbagliata. Non è il protezionismo, non è attraverso la chiusura dei confini che si risolvono i problemi. Ecco, direi che per chi avesse avuto ancora dei dubbi su come la pensa Barack Obama, beh, ieri ha espresso nel modo più incisivo possibile tutto il suo disappunto su Brexit, un incidente della storia che rallenta le integrazioni commerciali, che potrebbe nel medio periodo creare dei problemi alla crescita mondiale. E infatti Barack Obama ha aggiunto: non dobbiamo solo pensare alle reazioni a breve dei mercati. Le banche centrali erano pronte ad assorbire l'urto di Brexit e così pure le tesorerie mondiali, e difatti le perdite stanno rientrando. Piuttosto, dice Obama, dobbiamo pensare alle conseguenze di lungo termine, perché c'è il rischio di un impatto sulla crescita globale per tutti. E noi per primi, ma anche l'Europa, dovremo adottare politiche fiscali espansive per evitare il contraccolpo. Ecco, secondo Obama l'appuntamento per discutere in modo coerente sul da farsi sarà il G20 che si terrà ai primi di settembre in Cina. Ma devo dire che vedere questi tre leader insieme nel momento in cui in Europa stiamo soffrendo, abbiamo sofferto ieri di questa uscita della Gran Bretagna con il primo vertice senza un primo ministro inglese, c'è sicuramente una componente muscoli in questo accordo NAFTA per il mercato unico nordamericano, un mercato di 489 milioni di persone. E il messaggio non è soltanto per chi in Europa magari sta pensando di staccarsi o vorrebbe imitare la Gran Bretagna, o chi lo fa addirittura, pensate, in America, perché non c'è solo Donald Trump che dice che lui vuole cancellare il NAFTA, ma ci sono addirittura coloro che in Texas hanno già coniato il termine Texit. Il Texas si chiama The Lone Star e c'è un movimento indipendentista texano che improvvisamente si sente molto ringalluzzito. Sentiamo di nuovo Barack Obama. Now, with respect to Brexit, those who argued about leaving the European Union are the same folks who the very next day are insisting, don't worry, we're still going to have access to the single market. Ecco Obama che dice: solo dopo ci si accorge di quel che si è lasciato indietro. Ho sentito che chi era a favore dell'uscita oggi chiede di restare sul piano commerciale, magari su quello dell'apertura delle frontiere, aderendo anche ad altri aspetti dell'Unione. Ma oltre ai diritti ci sono responsabilità, e dunque su questo punto Barack Obama la pensa esattamente come gli europei. La Gran Bretagna non può tenere un piede dentro e un piede fuori. L'unico auspicio del presidente americano è che tutto questo si concluda nel modo più rapido possibile, che ci sia un percorso veloce e trasparente per dar seguito in modo concreto all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, perché allungare i tempi non potrà che creare confusione per i mercati e per gli investitori. Certo, il presidente americano soffre il colpo al multilateralismo, al grande progetto del multilateralismo, che era un progetto non soltanto americano ma anche britannico alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E su un punto, devo dire, Obama è stato molto severo. Da una parte, certo, ha ribadito che il rapporto con gli inglesi resta forte, resta privilegiato e così via, sono gli alleati di sempre. Tuttavia ha sottolineato che non si prevedono accordi commerciali bilaterali con la Gran Bretagna per creare un mercato unico con gli Stati Uniti d'America. E dobbiamo ricordare due cose, ha detto Obama. La prima è che la Gran Bretagna ha il 50% del suo interscambio in Europa e dunque dovrà preoccuparsi di capire come gestire il cambiamento per non soffrire dal punto di vista economico. Numero due, noi abbiamo già un negoziato avanzato con l'Unione Europea per creare un'area di libero scambio transatlantica e certo non abbiamo lo spazio per aggiungere un altro negoziato a un piatto già pieno. Infine, in questa conferenza stampa, un attacco molto diretto anche contro Donald Trump. Sentiamo. They say something controversial in order to win votes. It's not the measure of populism. That's nativism or xenophobia or worse. Or it's just cynicism. Ecco, interessante, perché qui Barack Obama non menziona mai il nome Donald Trump, ma lo attacca senza pietà, addirittura dicendo che lui non è un populista. Trump dice di essere un populista, dice: ma forse un populista ero io quando promettevo di salvare il settore dell'auto, quando promettevo un piano per la riforma sanitaria. Populisti sono magari coloro che cercano di fare delle cose nell'interesse del popolo, ma chi usa certi termini in campagna elettorale non è populista, ha sottolineato Obama, cerca piuttosto di sfruttare i sentimenti più oscuri in coloro che hanno paura e usa termini e una filosofia caratterizzati da negativismo, da xenofobia o peggio da cinismo. Ecco Trump, beccati questa, come si direbbe. Bisognerà vedere però se questo attacco di Obama alla fine riuscirà davvero a colpire nel segno o se, come ci ha dimostrato Trump, purtroppo dico io, in passato, riuscirà a reagire e a rimettersi in piedi. Devo dire, il momento per Trump continua ad essere non facile. Tra l'altro proprio ieri ha fatto delle dichiarazioni molto aggressive dopo l'attentato all'aeroporto di Istanbul contro l'amministrazione. Ha detto: bisogna rispondere, sempre usando questi termini retorici molto aggressivi, dobbiamo rispondere al sangue con il sangue, cosa che questa amministrazione non fa. Se io sarò alla Casa Bianca, gli faremo vedere i sorci verdi ai terroristi dell'ISIL. Ebbene, i sorci verdi li fa vedere anche l'amministrazione Obama, li fa vedere i sorci verdi anche ai talebani con attacchi continui di droni. Proprio ieri notte c'è stato un attacco nei pressi di Fallujah dove sono stati uccisi 250 terroristi dell'ISIL. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho appreso ieri una notizia che mi ha intristito un pochino. Paul Simon, 74 anni, farà un grande concerto mondiale, anche un concerto in Europa, e poi darà l'addio alla musica. Paul Simon è uno dei miei grandi idoli e dunque per celebrarlo in questo suo annuncio di chiusura imminente dei microfoni, vi propongo il suo grande classico che lo lanciò, mi sembra appropriato del resto per l'occasione, The Sound of Silence, il suono del silenzio. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!